Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Come sapete, nella nostra trasmissione ci occupiamo alternativamente di temi di servizio e temi di approfondimento finanziario. C'è un tema di borsa che da lungo tempo sta catalizzando l'attenzione generale. È il caso del riassetto del gruppo Fondiaria Sai, la compagnia di assicurazione conosciuta ai più come la compagnia della famiglia Ligresti, che da tempo in forte difficoltà finanziarie è al centro di una serie di lanci di offerte controfferte per arrivare al suo controllo. Iniziative che stanno facendo andare letteralmente sulle montagne russe i titoli di tutta la galassia e delle società interessate alla riorganizzazione. In questo momento sul piatto, se avete letto i giornali in questi giorni, ma è talmente intricata la vicenda che per la verità scoraggia anche i più volenterosi lettori, ci sono due grosse offerte. Da una parte quella presentata lo scorso dicembre dal gruppo assicurativo bolognese Unipol, a cui due giorni fa appunto ha risposto l'accordata Sator, società di Matteo Arpe, e Paladino Finanziaria, che hanno fatto sapere di voler puntare ad almeno al 60% di Premafin fine la holding di controllo di Fondiaria, senza però passare da una fusione con questa. Se prevalesse l'offerta di Unipol, nascerebbe un colosso italiano delle polizze danni, per cui anche da questo punto di vista prettamente industriale si guarda con grande attenzione all'evoluzione della situazione. Io ho sintetizzato davvero all'ennesima potenza la questione, perché non si risolve davvero così, è una vicenda intricatissima che va avanti da mesi perché appunto le difficoltà della compagnia sono note da tempo, e per la verità le considerazioni che si sono messe sul piatto sono state davvero molte in questi mesi. Ci sono le grandi banche italiane che sono dei creditori importanti di Fondiaria, per cui in qualche maniera è chiaro che sponsorizzano una soluzione piuttosto che un'altra. Ci sono gli interessi dei piccoli azionisti che, lasciatecelo dire, in questo periodo ci sono sembrati ben poco tutelati, a giudicare dai movimenti di borsa registrati negli ultimi tempi. Solo per Premafin ci sono state delle giornate in cui il titolo ha avuto avanzamenti del 30-40%, crolli altrettanto repentini. Ci sono poi gli interessi anche dei tanti assicurati, sono circa 8 milioni con Fondiaria SAI, che cercano di capire che destino avranno. Probabilmente nessuno, perché tanto che si finisca in mano ad una compagnia piuttosto che a soci finanziari, è chiaro che loro le loro polizze dovranno continuare a pagarle, ma chiaramente hanno tutto l'interesse di capire a chi dovranno versare questi premi. Ci sono anche poi gli stessi assicuratori, chiaramente, di questa compagnia, che così guardano con grande attenzione ed apprensione a quello che sta accadendo. Allora noi stamattina cercheremo di, mission impossible direi, fare un po' di ordine nella situazione. Ride la nostra Valeria Novellini dell'ufficio studi del Sole 24 Ore, perché se poi vi racconto insomma come l'ho fatta intervenire oggi in trasmissione vi faccio anche sorridere, poi magari lo raccontiamo ai nostri ascoltatori. Valeria, ciao, bentornata, buongiorno. Buongiornata. Abbiamo bisogno anche di un altro esperto di mercato per chiarirci un po' le idee. Ringrazio e saluto questa mattina Giulio Baresani Varini, responsabile del Wealth Management presso Millennium Sim SPA. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie. E poi appunto per il punto di vista proprio assicurativo sentiremo più tardi Francesco Paparella, presidente dell'AIBA, l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione. Allora, se volete intervenire, e anzi mi fate anche una cortesia questa mattina, perché ci sono talmente tanti aspetti da chiarire che io ho fatto anche fatica a dipanare la matassa e a capire da che cosa poter partire. Comunque vi chiedo una collaborazione, chiamateci all'800240024 oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Se volete potete anche animare come sempre la discussione su Facebook sul nostro profilo, che è all'indirizzo salvadanaio-radio24. I temi di borsa oggi, poi vedremo anche i titoli interessati a questa operazione come si stanno comportando. Milano è positiva in questo momento, sta guadagnando lo 0,8%, un po' meno guadagnano le altre piazze. Parigi più 0,53, Francoforte più 0,83, Londra più 0,03%. C'è stato stamattina in avvio uno scatto che si mantiene per la verità dell'euro sul dollaro a 1,34, tra l'altro un andamento anche in palese contraddizione rispetto invece a quelle notizie che ieri hanno provocato un calo delle borse, cioè le nuove stime della Commissione europea, il nuovo rapporto della Commissione europea per il 2012 che ha evidenziato con grande chiarezza uno scenario recessivo per le principali economia dell'Eurozona, in particolar modo per l'Italia, per cui si prevede un calo del PIL dell'1,3% per tutto l'anno. Stamattina però l'euro preferisce appunto andar bene ed è ai massimi dal dicembre scorso. Stamattina ci sono state due importanti aste del Tesoro italiano, che ha collocato 3 miliardi di CTZ a zero coupon con un rendimento in calo al 3,013% dal 3,76 dell'asta del 26 gennaio. La domanda è ammontata a quasi 6 miliardi di euro, per cui c'è stata anche una discreta soddisfazione per l'ampia richiesta di questi titoli da parte del mercato. Il Tesoro ha collocato anche 1,5 miliardi di BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro. E dopo queste aste lo spread è rimasto intorno ai livelli che vede da ieri, da un paio di giorni, 360 punti base. Per raccontare un caso di borsa evidente di questa mattina, Telecom più 5,67%, il gruppo ha diffuso i conti questa mattina, ci sono utili e ricavi in rialzo, ma un calo del monte dividendi complessivo. La notizia circolava già da giorni, forse il titolo l'aveva già digerita e oggi guadagna appunto il 5,61%, come vi dicevo, a 85 centesimi di euro. C'è anche una riduzione dell'indebitamento finanziario per il gruppo, forse il mercato guarda positivamente anche a questa indicazione. Tornano a correre le Premafin, questa mattina il titolo è finito in asta di volatilità quando segnava un rialzo teorico del 10-17% a 41 centesimi di prezzo. Ricordiamo che ieri le azioni della holding di controllo del gruppo fondiario SAI avevano messo a segno un balzo di oltre il 36% proprio dopo l'offerta a sorpresa della cordata Sator Palladio da 450 milioni di euro contro i 400 proposti da Unipol. Anche se per la verità Unipol dietro all'offerta ha anche tutto un progetto di riorganizzazione industriale del gruppo piuttosto preciso. Questa è proprio la notizia della quale parliamo oggi, la riorganizzazione, il riassetto del gruppo Fondiaria SAI, ma Valeria Novellini, più che di riassetto, diciamo che quello che dobbiamo parlare è della ricerca di un grande azionista, di un grande socio che corra, possiamo dire, al capezzale di questa compagnia, o è un termine troppo duro? No, il termine è esatto, anche perché la stessa Fondiaria SAI quando ha annunciato il progetto di integrazione con Unipol, che è ovviamente il primo che si è palesato, ha dichiarato che il problema è quello che la società aveva un margine di solvibilità, a cui parliamo del 30 gennaio, del 75%, quindi sicuramente non sufficiente a garantire la solidità finanziaria del gruppo. E questo è molto grave soprattutto per un gruppo assicurativo che deve garantire gli assicurati. Quindi comunque un aumento di capitale di Fondiaria avrebbe dovuto esserci, e quello annunciato in questa occasione di 1,1 miliardi. Attualmente pare che per il miglioramento degli spread e in generale delle condizioni del mercato finanziario il margine di solvibilità sia aumentato, si parla del 90%, non è comunque chiaramente sufficiente a garantire la stabilità della compagnia. Quanto mediamente devono essere questi margini di solvibilità di cui devono rispondere le compagnie di assicurazione, Valeria? Una domanda complicata. Diciamo che non c'è un livello preciso, ci sono delle richieste come sempre da parte di Basilea, i criteri di Basilea 1 e 2 adesso per le assicurazioni sono i famosi solvency, esatto, no? I solvency ratio, però al momento un margine di circa il 120%, come è quello che Fondiaria dovrebbe raggiungere tramite l'aumento di capitale, può essere ritenuto sostanzialmente sicuro. Teniamo conto che la sua controllata Milano ha un margine di oltre il 130%. Giulio Baresani Varini, allora mi piacerebbe anche con lei, se vorrà farlo e avrà la pazienza di farlo, ricostruire un po' le vicende, le vicissitudini economiche, industriali e finanziarie di questa compagnia, tali per cui ci siamo ritrovati oggi a parlare di questo caso, ma le chiedo un po' complessivamente il suo giudizio su un tema piuttosto delicato, che è quello della tutela dei piccoli azionisti, che in questi giorni stanno vedendo il loro portafoglio titoli su questo gruppo andare letteralmente sulle montagne russe. La Consob è intervenuta in vari frangenti di questa vicenda, soprattutto alla luce delle ultime novità, ma non ha ancora deciso di sospendere le contrattazioni, le negoziazioni del titolo. Secondo lei dovrebbe farlo? Sì, tra l'altro la Consob viene un po' dimenticata in questa fase, ma dobbiamo pensare che questo titolo Fondiaria valeva 20 euro e più nel 2007. Siamo scesi sotto l'euro dopo aumenti di capitale, adesso siamo risaliti dopo i grandi rimbalzi, ma siamo a valutazioni per tutto il gruppo Fondiaria, si pensa a 600 miliardi di capitalizzazione per 8 milioni di assicurati, cioè parliamo di un gruppo che se dovesse unirsi con Unipol avrebbe il 33% del ramo danni in Italia e, come dire, l'interesse su questo gruppo in genere nasce anche dal fatto che magari dei pezzi pregiati potrebbero essere venduti sia sul fronte immobiliare sia sul fronte meramente industriale. Allora, i Ligresti non hanno quasi mai gestito in modo efficiente questa compagnia, prima con SAI, poi ci fu l'acquisizione di SAI su Fondiaria con tante lamentele degli azionisti storici Fondiaria, cioè una compagnia di Torino che comprava una storica e solida compagnia di Firenze, e sostanzialmente gli azionisti di minoranza sono sempre stati un po' bistrattati. Sia la Fondiaria che la Milano Assicurazione da lei controllata hanno azionisti di risparmio che ogni tanto hanno visto dei dividendi, ogni tanto no. La catena con le scatole cinesi Premafin Fondiaria Milano già, come dire, sa un po' di cose anni 80, e oggettivamente la compagnia è in difficoltà da tempo, ci sono stati conflitti di interesse notevoli nella gestione proprio delle riserve, quelle che servono, si raccolgono i premi a fronte di futuri sinistri, ma non sono state poi così ben gestite. I paracaduti tecnici appunto proprio delle compagnie per liquidare i danni quando chiaramente gli assicurati lo chiedono. Si verifica il sinistro, sì. A questo punto si era presentato il gruppo francese Groupama, un grande gruppo francese assicurativo, aveva richiesto alla Consob, la nuova Consob di Vegas è un po' più rigida rispetto alle precedenti gestioni, e la risposta della Consob fu pochi mesi fa: no, devi farti l'OPA a scalata, cioè se vuoi comprare questo gruppo non basta comprare la Premafin, che vale molto poco oggi, 250 milioni, ma devi poi a cascata fare, e quindi l'investimento era diventato per i francesi troppo oneroso, perché tra l'altro poi nelle loro trimestrali hanno annunciato che, come molti gruppi francesi, la Grecia gli aveva creato particolari danni e si sono dovuti ricapitalizzare anche loro. Successivamente Mediobanca e Unicredito, che sono insieme a Banco Popolare tra i gruppi più esposti sia su Premafin ma anche su Fondiaria, hanno chiesto una sorta di esenzione dall'OPA nell'operazione Unipol, perché di fatto avviene una fusione di tipo industriale tra due società. E diciamo che teoricamente le condizioni per questa esenzione ci sarebbero. Ci sarebbero, anche se io al posto di Vegas avrei un profondo disagio a spiegare come mai all'arrivo dei francesi questa esenzione non c'era, dopo qualche mese, dopo anche incontri di approfondimento, si dice, tra Nagel, amministratore di Mediobanca, e proprio la Consob Vegas, con un membro Consob che si chiama Pezzinga, che aveva criticato apertamente su un giornale il proprio presidente Consob, perché sostanzialmente dice: noi siamo dei controllori, non possiamo, diciamo, dare delle indicazioni preventive su come strutturare l'operazione affinché non ci sia. Semmai, ecco, si interviene dopo, le si blocca o le si avalla, giusto? Sì, ma però no. È anche vero che qui c'è un interesse generale, e quindi per esempio Mucchetti sul Corriere dice: guardiamo gli 8 milioni di assicurati, guardiamo gli 8 mila dipendenti, non facciamoci portare via un altro pezzo della nostra industria. Penati invece su Repubblica è molto più rigido, difende molto più i piccoli azionisti e per esempio proprio oggi pone tutta una serie di domande, per esempio sulle partecipazioni offshore nascoste dei Ligresti in Premafin, vuole capire come mai anche le stesse banche creditrici sapevano o non sapevano che dietro c'erano i Ligresti. Insomma, è una situazione veramente complessa e per la Consob si è resa ancora più complessa con l'arrivo di Sator Palladio, perché da un vero e proprio salvataggio di fatto adesso ci sono due interessati e quindi vuol dire che la preda, per quanto ammaccata, non è proprio così brutta e quindi sarà ancora più difficile dimostrare che l'esenzione d'OPA, d'obbligo d'OPA, sia così palese. Ecco, tra l'altro il presupposto per l'esenzione del quale parlavo io prima era che, appunto, essendo una compagnia in forte difficoltà finanziaria, questo è uno dei casi per i quali appunto l'obbligo dell'OPA può essere superato, ma non è appunto in questa condizione così semplice, anche alla luce proprio della novità degli ultimi giorni, come Giulio Baresani Varini ci spiegava. Adesso ci fermiamo, abbiamo il nostro primo stop, la nostra prima pausa, c'è una domanda di un ascoltatore, Marco da Genova, che tra l'altro è una domanda che andrà bene per l'ospite che interverrà nella seconda parte della nostra trasmissione, presidente dell'AIBA e l'Associazione Italiana dei Brokers di Assicurazione, che chiaramente sono direttamente interessati all'evoluzione di questa vicenda finanziariamente complicatissima. Allora, questa mattina davvero ci siamo impelagati in un ginepraio piuttosto complesso, però siccome è una vicenda finanziaria sicuramente ardita anche nel doverla raccontare, ma che interessa poi paradossalmente invece tantissime persone, gli azionisti di queste società che sono interessate a questo riassetto del quale tentiamo di parlare questa mattina, il riassetto del gruppo Fondiaria Sai, gli assicurati, gli assicuratori che naturalmente lavorano per questa compagnia e che in prospettiva potrebbero lavorare per un gruppo completamente riorganizzato, per l'appunto, qualora passasse l'offerta del gruppo Unipol, che appunto vuole andarla a controllare, un'offerta che è stata lanciata nei mesi scorsi, è stata proposta nei mesi scorsi, ma che al momento appunto non ha ancora un via libera. Tra l'altro, Valeria Novellini, perché adesso il gruppo deve esaminare sia questa offerta ma anche quella arrivata due giorni fa dalla nuova cordata Sator Palladio entro questa scadenza che abbiamo detto è l'8 marzo, no, non abbiamo detto forse ancora. Cosa deve succedere entro l'8 marzo? Entro l'8 marzo, per l'appunto, visto che la seconda offerta scade, il gruppo Fondiaria Sai, Premafin in particolare, deve dire quale delle due offerte effettivamente intende accettare. Diciamo però che c'è un problemino, perché con la prima offerta, cioè quella di Unipol, ha firmato un impegno vincolante, quindi di conseguenza, cioè, naturalmente potrebbe decidere di accettare l'altra offerta, però sicuramente se l'impegno è vincolante ci sono degli impegni, probabilmente sia penali, finanziarie, come anche giuridiche, delle conseguenze, diciamo, che Premafin si dovrebbe trovare ad affrontare in caso decidesse di accettare la seconda offerta. Inoltre, siccome tutte e due le offerte sono subordinate alla mancata necessità di OPA su Fondiaria Sai. Certo, perché anche Sator e Palladio non hanno nessuna intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto, insomma vorrebbero fare appello ai presupposti di cui parlavo prima, la difficoltà finanziaria della società, per cui esenzione dell'obbligo di OPA. Sì, ma il problema è che sarebbe un impegno finanziario esorbitante l'OPA cascata, questo è il vero problema, al di là purtroppo della giustezza della tutela dei piccoli azionisti. Ecco, siccome tutte queste offerte sono vincolate al fatto che la Consob prevede il mancato obbligo di OPA, attenzione, perché la Consob potrebbe teoricamente esentare una e non l'altra, perché se con Unipol c'è, se non altro, la prospettiva di un'aggregazione industriale con un gruppo analogo, che ha un po' più senso forse, però vabbè, ecco, questo è un commento questo nostro. Con Sator Palladio certo cambierebbe il management di Fondiaria Sai, cambierebbe probabilmente la gestione, però diciamo che le incognite, i problemi che la società ha al momento non sarebbero risolti, quindi sarebbe ancora meno giustificata l'esenzione dall'obbligo di OPA. Giulio Baresani Varini, torno un attimo a lei, poi andiamo a Francesco Paparella, con il quale ci siamo collegati appunto telefonicamente. Per lei, dal punto di vista finanziario ed industriale, in qualità, diciamo, di analista, osservatore, esperto di mercato, qual è l'offerta che ha più senso, anche se indirettamente mi pare che il mercato e molti altri appunto autorevoli commentatori lo abbiano detto, la logica industriale di una aggregazione con Unipol, è chiaro che ha un senso rispetto ad un assalto finanziario fatto da soggetti che hanno mission e svolgono lavori appunto completamente diversi, insomma, però lei come la vede? Vincerà la proposta Mediobanca e Unipol, perché c'è un preaccordo blindato. Le banche creditrici sono in trincea e non sono banchette, perché sono Mediobanca, Unicredit e Banco Popolare, che si sono già le prime tre banche creditrici di Premafin espresse in quel modo. L'unica cosa è che la manovra, io dico di disturbo, di Arpe, è servita per ridare un po' il pallino in mano a Ligresti. Infatti così si spiega la salita enorme in questi 2 o 3 giorni di Premafin, che sarebbe invece stato un po' escluso, diciamo, nell'unione fondiaria Unipol. È indubbio che poi l'ISVAP, che magari ha un po' dormito negli anni nei controlli, preferisce comunque un'integrazione industriale, perché comunque, se non proprio di 1,1 miliardi, l'aumento di capitale in fondiaria va assolutamente fatto per riportare su questi margini di solvibilità, che peraltro io non penso siano al 75%, ma con lo spread a 3,60 saranno già oltre il 90%. Infatti, perché il bilancio di questa compagnia, ricordiamo che ha un bel pacchetto di titoli di Stato. Sì, e molto lunghi di duration. Ecco. Quindi volevo segnalare che industrialmente ha molto senso giocarsi un po' questa operazione, perché se lo spread ed è possibile potesse andare a 300 anche dopo la manovra della BCE di rifinanziamento delle banche che avverrà la prossima settimana, se solo andasse a 300 ci andremo oltre quel 100, in più aggiungiamo che ci sono delle normative recentemente cambiate sul micro infortuni nell'RC auto, dove Fondiaria sale molto forte, i famosi colli di Swarovski, oppure il discorso dei testimoni con la condanna falsi fino a 5 anni, l'albo dei testimoni per non avere lo stesso soggetto che testimona 20 incidenti tutti insieme. Insomma, c'è tutta una serie di cose che potrebbero rilanciare un po' diciamo la parte industriale di SAI Fondiaria, ma io credo che Sator punti e Palladio a uscire con questa manovra di disturbo, con una sorta di o pezzo industriale o pezzo, diciamo, di tipo immobiliare o buona uscita. Tra l'altro la mediatica entrata di De Castri, cioè del CEO di AXA, in Mediobanca, proprio quel giorno, è per dimostrare, guardate Sator Palladio, che se voi volete comprarle poi non ce la fate a gestirvela tutta, il potenziale compratore di un pezzo è già con noi e non è con voi. Quindi è una cosa molto lunga, molto complessa, ma che farà storia. Va bene, a ricostruirla questa storia. Comunque voi vedo che siete completamente all'altezza. Io davvero mi sono persa anche ieri nel rimettermi a studiare. Ad un certo punto al mio collaboratore, a Marco Lombardo, ho detto: ma insomma, ma quando ho deciso di fare questa puntata, e te l'ho detto, perché non mi hai sparato? Perché veramente farci chiarezza è dura. Detto questo, Francesco Paparella, presidente dell'AIBA, l'Associazione Italiana dei Brokers di Assicurazione e Riassicurazione, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. Allora, guardate con passione a questa vicenda o vi preoccupa? Tutte e due le cose, la guardiamo con estrema attenzione e da sempre noi abbiamo pensato che non fosse possibile mandare in default quel gruppo, perché è leader in Italia della responsabilità civile auto obbligatoria, e quindi il sistema della RC Auto sarebbe saltato, e questo considerando che l'RC Auto rappresenta il 50% dei rami danni era un impensabile per il mercato. Dall'altro lato siamo preoccupati perché le grandi aggregazioni riducono ovviamente la libertà di mercato, riducono il mercato, e noi da intermediari liberi temiamo quando ci sono delle aggregazioni troppo grandi, e questa lo sarebbe, diventerebbero assolutamente leader assoluti nella responsabilità civile auto, e sappiamo tutti che quando queste cose si verificano normalmente le tariffe si allineano alla più alta, certamente tra i due che si vanno ad aggregare, e questo ci preoccupa. Certo, gli assicuratori che cosa dicono? Sono preoccupati quelli che, per esempio, non so se li sente, Presidente, che rappresentano appunto questa azienda, che cosa li disturba di più rispetto a quello che hanno visto negli ultimi tempi, l'incertezza anche chiaramente della compagnia per la quale lavorano, a parte l'aspetto industriale che lei diceva, comunque la riorganizzazione anche tariffaria di un soggetto molto grande che avrebbe un ruolo molto importante nell'intero mercato, ma insomma che tipo di altri timori hanno? Anche nella relazione con il cliente, a cui dovranno poi spiegare come si riorganizza la compagnia, che magari avrà servizi migliori, peggiori, non lo sappiamo. Beh, sicuramente diversi, perché le due compagnie hanno filosofie operative differenti e quindi probabilmente, almeno in una fase iniziale, credo che le due compagnie manterranno una certa identità autonoma, dopodiché si tenderà comunque a una equiparazione e a una fusione anche in questo. In che cosa sono differenti, Presidente? Ma intanto è la tipologia di approccio al mercato. Unipol ne ha una che è rivolta a un retail molto spinto ed è molto presente in determinate aree geografiche, è meno presente Fondiaria SA in quelle stesse aree, ma è più presente altrove, quindi anche questo, l'aggregazione di aree geografiche diverse, creerà dei problemi. In questo momento il management di Fonsai è quello che, diciamo, teme di più, se vogliamo, perché è quello che è oggetto di acquisizione e si sa che chi compra decide poi la governance, come deve essere fatta e da chi deve essere svolta, per cui è evidente che il management di Fonsai è quello che in questo momento teme di più per se stesso e per il proprio futuro. È anche vero che però in Fonsai esistono delle professionalità riconosciute da tutti e che quindi in qualche modo non credo che un eventuale acquirente, per quanto qualificato e professionale, possa dismettere delle professionalità che comunque gli servono. Per cui nella fusione, la fusione intanto non potrà essere immediata perché è molto complesso integrare tanti marchi così, ci hanno messo molti anni anche ad integrare all'interno di Fonsai il gruppo Milano, la Nuova Ma, Sasa, Liguria, sono processi di aggregazione abbastanza lunghi. Qui magari la necessità finanziaria farà in modo che saranno più rapidi. Rimane però questa nostra preoccupazione di un ulteriore restringimento del mercato primario nel settore dei danni. Ho rotto le cuffie nel frattempo, intanto le sistemo, ma nel frattempo appunto che dedico alla sistemazione delle cuffie sentiamo Marco da Genova. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Che ha già ipotizzato uno scenario incredibile, no? Vedendo guardando all'evoluzione di questa vicenda finanziaria, lei ha già immaginato un incidente fra assicurati delle due compagnie. Ma più che immaginato mi trovo a viverlo, una situazione del genere. Sono un assicurato Unipol e ho avuto un piccolo sinistro, per fortuna una banalità, con un assicurato Fondiaria. Chissà cosa succederà a livello di liquidazione. Spero pronta. Ma guardi, ma io penso che non succederà niente, anche perché qua stiamo parlando di un'operazione industriale. Ero solo curioso di sentire la risposta del dottor Papparella su un'eventualità di questo genere. Grazie Marco. No, tra l'altro, allora, ammettendo che questa offerta di Unipol Fondiaria la accetti nel famoso 8 marzo, adesso non credo che per gli assicurati nel giro di due giorni cambino le cose, Papparella. No, direi assolutamente no. Poi se il nostro ascoltatore ha fatto bingo Marco, certo. Al card, all'indennizzo diretto, lui non avrà nessun tipo di impatto e comunque non c'è, da questo punto di vista non si creano delle criticità di nessun tipo. Anche perché poi i tecnici all'interno delle aziende fanno il loro lavoro, poi se nascono dei problemi hanno altra natura e sono gli assicurati che nascevano comunque, indipendentemente se fossero potuti nascere sarebbero nati comunque. Luca Dalodi, buongiorno, operatore della compagnia SAI? Sì, Fonsai, buongiorno. Buongiorno. Allora, come vive questa vicenda? Legge con passione? Ci capisce qualcosa, tra l'altro, su quello che sta accadendo? Mai, cerchiamo di capirci, però è molto complicato. Diciamo che siamo fiduciosi che ci sia qualche politica industriale, perché fino ad oggi, soprattutto negli ultimi tre anni, è stato molto, molto difficile operare nel gruppo. Ecco. Però, come si diceva prima, le specificità ci sono, persone di alto livello ci sono e siamo fiduciosi. Per voi, insomma, meglio perseguire la logica industriale, quindi l'aggregazione con un attore del sistema già piuttosto importante, piuttosto che comunque andare avanti con un'operazione che avrebbe un sapore finanziario invece evidente? Sì, decisamente sì. siamo fiduciosi, spiace perché si chiude un'epoca, però speriamo di avere dei buoni obiettivi, ecco. La ringrazio molto, in bocca al lupo per tutto, naturalmente, grazie ancora. Sentiamo Renato da Rimini, poi concludiamo con un altro giro con i nostri ospiti. Sì, Renato, buongiorno. Ah sì, scusi, ma mi sono perso le ultime battute, non so se qualcuno ha già fatto. No, non credo che abbiamo parlato del tema che vorrebbe porre lei all'attenzione. Sì, no. Infatti io di borsa, di OPA e compagnia bella non ne sono. Più che altro, leggendo sui giornali, mi sembra di aver capito che c'è un debito con le banche di 1.600.000.000 di euro. Mm-hmm. Poi la perdita del 2011, 1.100.000.000 di euro. Mm. Allora, 900 milioni, sì, vabbè. Come? No, no, niente, ragionavo sulla cifra, non cambiano le cose, sempre una perdita, vabbè, importante. Allora, dicevo, una compagnia di assicurazioni può perdere tanti danari, considerando che le tariffe le fanno spesso e volentieri su misura in base a come sono andate le cose dagli anni precedenti. Quindi la mia domanda è questa: in tutta questa storia, io che non ne capisco niente, ho l'impressione che questi ammanchi siano frutto di cose che potrei dire irregolari, qualche irregolarità, qualcosa che forse può essere perseguibile andando a spulciare nei bilanci. Allora, i suoi esperti mi dovrebbero dire se è possibile che una compagnia di assicurazioni, senza che ci siano di mezzo dei reati, possa ridursi in queste condizioni, una delle più grosse compagnie d'Italia. Allora, diciamo che Ligresti è sempre stato un uomo molto ambizioso, ha una grande passione che è stata quella, che è tuttora, del mattone, ha fatto degli investimenti immobiliari molto molto importanti, poi ci sono altri rami della sua famiglia che hanno investito e perseguito business in altri ambiti, una delle figlie opera nel settore della moda, ma non solo, insomma il suo business si è allargato a dismisura in questi anni e molte parti di questo business non hanno avuto successo. Il tema è, Giulio Baresani Varini, ma lei ce lo diceva anche in apertura, che diciamo dalle casse della compagnia molto spesso si è cercato di porre rimedio ad altre avventure finanziarie che non andavano bene, e questo ha provocato appunto la situazione attuale. Da lì a dire che si possa anche parlare di reati, magari di falsi in bilancio, la cosa non è così immediata e diretta. Sì, però perlomeno sarebbe utile che la Consob, a tutela dei piccoli azionisti e di un mercato, poi non chiediamoci perché gli stranieri non investono sul nostro mercato, l'ISVAP, che dovrebbe controllare come fa la Banca d'Italia sulle banche e sanzionare ogni tanto, capire come in punto attuariale sono state gestite le riserve tecniche, perché dai cavalli di Ionella Ligresti all'ATA Hotel sempre in perdita, all'immobiliare lombarda, a tutta una serie di iniziative da donna, come dire, ci metto le borse di Gilli perché le ho viste, perfetto, al di fuori, come dire, l'immobiliare sappiamo perfettamente, e Ligresti nasce immobiliarista e non assicuratore. Finché va le tengo per me, quando non va bene in un modo o nell'altro le vanno, vendo la compagnia. Ecco, quindi questa non è neanche cultura del sospetto. A questo punto un cambio di proprietà non può che fare bene. Si tratta anche di capire dove erano le banche che hanno finanziato e che hanno aiutato, perché comunque la stessa Mediobanca, che è un'ottima banca e ben gestita, ultimamente, vuoi le svalutazioni sulla Grecia, vuoi un'esposizione su fondiaria enorme anche con subordinati e via dicendo, insomma mi sembra che un po' la situazione sia sfuggita di mano a tanti. Vediamo come si conclude dal punto di vista borsistico, ne starei fuori. La compagnia più solida è, guarda caso, quella più sotto, cioè la Milano, Milano, è quella dove le mani dei Ligresti sono arrivati come dire con un po' più, stavano più in alto nella catena, esatto, quindi vabbè, a parte gli scherzi, però è un dato di fatto. E poi forse di tutto questo ultimo rimbalzo, dove ci si potrebbe anche scottare, perché poi dopo bisogna fare sti aumenti di capitale, abbiamo visto e quindi gli azionisti vengono popolare, esatto, di Milano, quando poi partono non ce n'è per nessuno. E allora dicevo, la parte forse che è rimasta indietro, proprio perché sempre sfavorita, è quella degli azionisti di risparmio, sia Milano che fondiaria. Ecco, se proprio uno vuole giocare una partita lì, io al momento ne starei fuori. Direi che però è una cosa che non durerà poco, perché ci saranno tutta una serie di corsi, ricorsi. Ripeto, AXA ha messo un occhio, ma anche la stessa Cattolica Assicurazione, diciamo, gruppi italiani non ce ne sono molti, no? La stessa Generali è già leader di mercato per l'antitrust, non può agire lei, ma già il fatto che sia Mediobanca, che ne controlla il 13%, a organizzare tutta la cosa, perlomeno un sapore di leggero conflitto di interessi c'è. Speriamo che almeno la soluzione sia, come dire, italiana politica, ma anche industriale e minimamente rispettosa delle minoranze. Tra l'altro non esca fuori anche, adesso non so quanto possa essere probabile, un outsider che si incarichi addirittura di un lancio di un'OPA regolare, corretta, anche con la disponibilità finanziaria di farla a cascata. Valeria Novellini, tra l'altro diceva adesso, poi tra l'altro stiamo già chiudendo, ti interrompo subito ancora prima di farti parlare, Baresari Varini diceva fuori dalle azioni, lo ha detto abbastanza chiaramente, cioè però chi ci sta dentro da un po', quindi magari un conto è non entrare adesso con questa volatilità, un conto è chi già ci si trova dentro con dei pacchetti. Angelo da Savona, 5 secondi per la sua domanda, grazie. Il carico Fonsai a 4 euro, con questa probabilità di fusione, quello che diavolo c'è? C'è possibilità di rivedere i miei 4 euro o buonanotte? Angelo, qua dovremmo avere la sfera di cristallo. Tra l'altro Unipol quanto mette sul piatto per la conquista di Premafin, e non sappiamo poi a cascata quanto questa operazione comporterebbe di riconteggio delle azioni fondiarie, perché anche lì poi c'è tutto un domino da questo punto di vista. Valeria, non Unipol mette sul piatto 400 milioni contro i 450 della cordata Sator e Palladio. Però attenzione, perché dei 450 milioni 400 sarebbero sempre quelli destinati alla ricapitalizzazione di Premafin, mentre 50 sarebbero riservati agli attuali azionisti di Premafin, che rimarrebbero quindi azionisti comunque della società. In ogni caso, cosa fare? Diciamo che i 4 vale euro, mezzo, i 4 euro o equivalenti, non sappiamo se e quando equivalenti, perché ci sarà il concambio, li potrà rivedere, però in lunga prospettiva è più probabile che un'aggregazione industriale possa riportare i valori più adeguati. Quindi Angelo, o pazienza ancora per qualche tempo, e sarà un lungo tempo, oppure calma, gesso e pazienza a rivederci a queste posizioni, e chi si è visto si è visto, ma chiaramente sono delle scelte che lei deve fare considerando le esigenze sue di risparmiatore della sua famiglia. Grazie a Giulio Baresani Varini, a Valeria Novellini che non manca mai di venirmi soccorso, Francesco Paparella presidente dell'AIBA. Noi torniamo lunedì, buona giornata a tutti.